Sì, adesso c'è un altro incontro a cui teniamo molto, che a cura del seminario Veronelli con noi, che oggi è anche il 10º anniversario della morte di Gigi Veronelli, quindi ci teniamo particolarmente a fare questa chiacchierata, questa presentazione. Un attimo che cambiamo il...